Beh, zio Claudio. Beh, ascoltando sto a destra e a sinistra, passaggi ronfi. Ehi, aspetta che cambio apparato, dai, un attimino. Ehi, ehi, ehi, no, che so. C'è un bippi. Che radio è questa? Ci siamo quasi, Allora, power... Ecco qua. Eccovi qua. Gappa, gappa, mi sei stato io. Sono io, sì. Va bene, va bene. Perché tu stai dando? Vediamo se fischia. Mamma mia, se lo avvicino fischia, mi devo avvicinare il mic. E cosa me lo tengo in mano? Così è come avere un mic normale. Stavo apparecchio così però, vedi? Che apparecchio è? Quello che stai vendendo tu. L'Intec 5005, eccetera, eccetera. Aspetta che regolo. Questa 6, questa 5. Dai, me lo appoggio qua sulla gamba. Via. Trovo una sistemazione anche migliore. Via. Senti ronzi, senti rumori strani. Vedi un po'. E io pampino un lunedì c'è sotto. No, io non lo prendo, lo regalo. Lo regalo a qualche povero, a chi non ha baracchini. Questa gente ricca che c'è in radio, mi ha poco di radio. C'è la collezione, capito? Il VHF, VHF, ma io lo regalo questo. C'è il cluster, cluster, 1457, non mi interessa. Poca roba c'è per il momento. Bene così. Io posiziono questo cacchio di coso. E lo lascio a 5, dai. Vediamo così non fischia. Sì, sì, a 5 va lasciato. Vuol dire che parlerò un po' più vicino io, dai. Ecco qua. Hola, hola, e perché ci sono? Sì, Intec HR 5005 con Mike Gain, va, guarda, bastardo fischia, ascolta, allontana l'apparato, ecco, non il microfono, allontana l'apparato, con ZGMB più 5, K. Va bene, va bene, non problema. Mi ero in tasca, ho lasciato lì, poi vediamo se qualcuno che non ha bisogno, non c'è baracchino, glielo diamo. Non qua qua qua però, sempre di quelli buoni. Tanto, non fa niente. Io il baracchino già ce l'ho dato. L'ho provato stamattina, la scienza è abbastanza bella. Anche c'era, non so se sta rientrando, se fa sabato e domenica lì, ma che lo faccio sabato e domenica lì, all'ula, è un genio, all'ula è. Io sono povero, lì. Tu mi hai anche troppo, anche più di me, Mamma mia, questo. Allora, già, poi tonte contenti di un misero baracchino, con tutti quei mostri che c'hai, Sono un collezionista come qualcuno, trovo io, c'è un pedente, trovo io. Ah, poi io vi ho sentito adesso, era qualche giorno che non andavo in radio, ma comunque quello potrebbe far parte della mia collezione. E vabbè, trovo. Ascolta invece a me, ti ricordi quel discorso che avevamo giù a San Giovanni? Stamattina mi ha mandato un messaggio, non so se ti ha chiamato, se ti ha mandato un messaggio genio. Sto cercando quello piccolino mi per il camper. Addirittura fa cambio col 48. No, non mi hai detto niente, io non so niente. Io dovrei chiamare a te, se vuoi averci nato tu che con la persona va per fa. Capito, il tuo collega, non verrà il baracchinetto piccolino, ma lui non così la interessa. Addirittura dall'Aran 48 in cambio. Oppure, non lo so. Io ce l'ho il numero, quindi può tranquillamente mandare un messaggio se vuole, non c'è problema. Va avanti, Marco. Ehi, ciao Massimiliano. Claudio, ti voglio ricordare che io sono isolato con WhatsApp perché non mi sta funzionando. Allora, le telefonate normali funzionano con Wind, però Wind dati, quindi internet, non mi sta funzionando da un paio di giorni, con oggi sono 3 giorni, mi pare. Non so perché, poi non è usato, ne ho usato un decimo e mi ha passato il messaggio, i suoi giga sono finiti, se non è usato giga. Proprio si è interrotta la... e non ho capito se il telefono che mi era caduto. Così una cadutina scema, oppure se ne sono lamentati altri in questo periodo. Perché stanno facendo fusioni con altri operatori, quindi o il pasticcio è loro, come spero io. Quindi l'8 mi scade, il 7-8, io ricaricherò per avere di nuovo internet e spero che funzioni tutto. Se no mi tocca portare il telefono o chiamare la Wind o portare il telefono in assistenza, dai. Non so, guarda, io ho acceso adesso il computer, c'ho il computer acceso. Su internet è il cluster, anche acceso l'altro computer. La Wind, non so, la 3 sta funzionando benissimo. La grande, non mi sta creando problemi, ma da sempre, quando l'ho installata, ma la grande. Con preparazione, tra 18, 14, 92, questo ci sono già. Dunque, preparazione. Come Massimiliano? Hai lavorato stamattina, sei andato a shopping? Sì, no, stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola di ballo, c'erano le ripetizioni, capito? Bene, fra poco come diventare mentre Raffaella Carrara. No, Carla Fracci. No, Raffaella Carrara, meglio Carla Fracci, non mi piace. Carla Fracci non mi piace. Il problema c'è una volta ancora, mamma mia. Stanno prendendo questi diplomi, sono due volte. Carnevale del Tenerife 2017, 21, 190. G8, sono già. E quindi, capito? No, vabbè, gli ho dato l'info, gli ho detto di mettersi in contatto con te. E poi, perché non ne ho io? Quello giù è grande, già. Allora, se ne è uno piccolo come quello che abbiamo parlato l'altro giorno, ma c'è. Mia, io le ho mandato la foto e diciamo, già lo sai, piccolino, c'è il canale sotto e sopra, io appena lui mi contatta a Gianni, sono d'accordo, si può fare. No, gliel'ho detto Massimiliano, ho detto che non è il tuo, ho detto contatta Massimiliano, stamattina gli ho mandato un messaggio, contatta Massimiliano che è un suo amico, ce l'ha. Ho detto di contattare a te, anche perché non lo conosco, non potevo neanche mandargli foto, niente, no, stavamo solo parlando l'altro giorno, capito? E poi vedo un po', se va bene, se no seguo un pareggio, non problem, va bene, avanti, minuto. Sì. Ma secondo te oggi piove? Perché, cioè, stamattina avrei voluto quasi uscire di sera, portarmi il baracchino, portarmi l'antenna HF, ascoltarmi un po' 40 metri, 80 metri quando si fa più tardi con l'857, però senza microfono, perché poi se vedo il microfono magari si capisce che è un leggero trasmettitore. Volevo fare un po' di ascolto, però il tempo è quello che è, vedevo tutto nero, prima ero da Lidl a fare la spesa, ho visto il cielo tutto nero, ho detto ma cosa riesco a fare, fra poco non scende l'aria, però la nuova dice che non piove per oggi, niente le sai. Era sirocco ieri, ma ripeti oggi non piove, come fa a dire non piove, sta caricando, può essere che non ce la faccia stasera. Domani mattina, ma la quale data per fine settimana, quindi sì. Ma anche qua è grigio, nero, no, grigio, abbastanza grigio, però c'è la festa qua a Piazza Domoro, i bambini, le case, insomma, se piove disturba parecchio, peccato. di Napoli Atalanta, e alle 8 e mezza c'è la Juve, Juventus Empoli. Stamattina ti ho mandato un messaggio, che ero sul 10, dopo Giulio ci avevamo fatto una chiacchierata, poi io parlavo con Eugenio, lui mandava i messaggi su WhatsApp, perché lui non arrivava, però non già mi sentiva. Avanti Massimiliano, KK, positivo. Io mi allontano un attimino dal radio, ti ascolto volentieri, ma ho una cosettina da fare al volo, poi al limite riprendo. E già siamo qua, non ti preoccupare, è tranquillo. Avanti Marco. Eia, ma ho sentito propagazione un attimo fa, vero? Sento che chiamava gente, tipo, boh, spagnoli, chi sono? Spagnoli, sono i Minorca, sono i Maiorca, quelli sono trovando, almeno qua arrivano sempre. Non sto dando sempre un'occhiata al classe per vedere se c'è qualcosa di interessante, però è tutto in banda, che non nel turno del 95 ci sono un PC e una cosa allucinante a tutte le parti, c'è una settimana che sta girando in 15, in 20, in 40, quello è a 12.000 km. È bella distanza. Vabbè, oggi non credo che andrò, ormai. Preferirei andare in quei giorni un po' dove c'è il sole, sai, quelli un po' belli tiepidi, no? Col cielo sgombro, magari la propagazione è anche migliore, chi lo sa. Oggi com'è in 40 metri, per esempio, a livello di propagazione? Già, ma è tutto il contest, è tutto il mio nei francesi, 15.377 km l'UCS, l'isola, è un'isola, è una cosa allucinante, 15.377 km, UP6 è Cunifor, è da una settimana, non lo sto tentando, mia roba, anche il 18, in 21, poi una cosa, vedi, io ascolto da casa i 20 metri bene, i 40 metri devo attenuare perché sennò c'è un po' di QRM, però bene o male gli italiani li sento. Invece in 80 metri da casa è raro sentir gente, l'antenna non è sua, non è adatta. Invece in macchina c'ho l'antenna proprio tarabile per gli 80 metri. E mi sarebbe piaciuto qualche sera tardi, insomma sera, insomma, dalle 7 in poi, ascoltarmi dalle 7 alle 8, alle 9, quello che è, ascoltarmi un po' di 80 metri con l'antenna giusta, capito? Per fare un po' di ascolto. Pensa che in 40 metri, con quell'antenna Proxel Pro X1, non prendi QRM, puoi addirittura inserire l'amplificatore, quella funzione IPO, no? Quando c'è IPO è ricezione normale, se togli l'IPO mi pare si inserisce l'amplificatore, e anche con l'amplificatore non c'è praticamente quasi QRM. Capito? Bello, come riceve, è molto bello. E vediamo adesso che migliora il tempo, piano piano. Non devo aver fretta, dai. Che fretta ci vuole? E che fretta ci vuole? Cari Degas, non fate manco cucciar più, Subiata, guess. No, stavo, sì, propagazione già ce n'è, però c'è i 40 metri contest, così, mentre invece è un po' sparso, c'è qualche country buono, non vediamo, no, non giura. Mamma mia, si che abbassano, prende un gabbo a pallone, che cazzate. Ma tu c'hai il comp- computer, siamo trovati lì, cluster. Così giusto per guardare, per seguire. Però non ho idea di come funzioni, Claudio, proprio non ne ho idea. Non so niente di cluster, niente di niente. Conta che il computer è obsoleto anche. Perché alla fine l'altro l'avevo dato. C'ho di nuovo XP, il vecchio me, il vecchio. Quello nuovo che qualche anno fa avevo preso non era andato bene, l'avevo fatto fuori, capito? Manco via. Oh, via. Beh, cluster è una molto importante, un po' assente, un po' fuori, non riesce a seguire, non riesce a spostarsi. Invece quando ce l'hai sotto controllo, adesso ce l'ho in aula, tutte le bande, no, dopo lo metto in 20, lo metto nelle bande che vuoi, capito? E segui un po'. Ma sono le gente in cui repice, tutti in cui repice. Vanessa, dicevi, se Vanessa incontrare, io non senza incontrare. E un giorno ho sentito anche una donna, amiche, una donna radioamatrice modulava. Dalla voce non era male, era una signora anche un po' grande, che ne so, 50, 60. Capito? Ho detto, ma una donna che è radioattrice, io fai l'esame. Mi ho detto apposta. E poche sono però le donne radioattrici, no? Cioè alla fine. Oh, ce n'è un bel continente, ce n'è. Mi dice Francesca che sempre contest fa parecchi, oppure anche i collegamenti. Capito? Ci sono sezioni sempre. Ce n'è. E piacere. Un brillante invece. Inizia a girarsi le palle, a fare qua. Aveva studiato, forse si aveva abbigliato la patente. Invece mi veniva un bel fratello qua. Pensiamo lì. Togliere regali, no, ma si stanno sbagliando. Non regala più niente a nessuno oggi. Bisogna studiare, bisogna andare preparati, fare le cose fatte bene, non andare a chiedere se te la regalano. Io vorrei fare tutto e poi non faccio niente, come vedi. E spese, cioè non ho reddito, se avessi reddito potrei mettere qualche antenna in più, insomma, almeno un'antenna che mi permette, un'antenna V, un'antenna cornuta, la Comet H422, no, AV, ecco, già mi permetterebbe di fare 10, 20, 40 metri se avessi la patente, vedi, quella ha un costo contenuto. Ah, dimenticavo, le fa anche la ProSystel italiana, quelle antenne, non mi ricordo le sigle, proprio fa l'antenna V, 10, 20, 40 oppure 10, 20 oppure VARC, te l'ho detto, però la migliore è sempre 10, 20 e 40 e il prezzo è popolare, prezzo alla mano, persino alla mano mia, diciamo, sia verticali che antenne V, poi c'ha di poli anche trappolati, insomma, l'importante è che funzionino correttamente. Poi guardare 21.295, 15.000 km, aspetta, giro l'antenna, 15.000 km, Sudafrica proprio, è un'isola sotto. A proposito di bande varie, io mi ero fatto, avevo stampato tempo fa, quando funzionava la stampante, il band plan HF e poi quello VU, anche se a me interessava l'HF, no? Quello tutto a colori, bello, no? Dove indicava un colore, diceva la fonia tipo FM, uno diceva la fonia SSB, uno il digitale, molto bello. siccome adesso ho la stampante nuova e ho perso, non so dove siano quei documenti là, quelli stampati, me lo voglio stampare di nuovo, nuovo. Me lo voglio stampare, soprattutto con l'HF mi interessa, così lo guardo, so già dove sentire la fonia, capito? Tipo da 14.110 mi pare la fonia a 14 e fruscia, capito? E poi è bellino, tutto colorato, insomma. Ti dava le indicazioni. Vabbè, e cosa è successo? Ho detto che avevo perso gli stampati, no? Avevo perso, e avevo la stampante vecchia, non funzionava più. Adesso che ho la stampante nuova, me li posso stampare di nuovo, capito? Ho capito. Aggiù capito, però e lì c'è la tabella, c'è le cose, basta. Basta fare le cose, capito? Basta fare le cose, già ci sono scritte là. Ehi, almeno per l'ascolto. Prima di ora di attore, per carità. Faccio come i certi, non mi abbasso, scendere i 27, ora sono radioamatore. Me ne peggio pure. Chi non so nulla si crede da sia che cosa, che va diverso. Capito? Quelle sono scelte che fa la gente, ma non c'è da meravigliarsi. E poi di noi non si può dire niente, che sia io, sia insomma un po' tutti gli altri, senza fare nomi, che ben conosci già, si affaccia ogni tanto 27, io sono sempre, ma da sempre, da una vita, capito? Non vorrei anche uno che pensa di sapere e li va. Chi ci vuole fare i denti, veramente? Tutti sarete, non sa nulla. Ci sarete a pigliare San da Cagliari, ma su sabato. E dillo che sei geloso. Ma allora, non c'ho niente io che c'è tutto, figurati se sono geloso. E lì che devo essere geloso. Di un verme schifoso come quello, che non riuscì a dittare. Meglio niente. Ti dico come mi diceva Grode a me. Fai da bravo. Capito? Fai da bravo. Mi ricordo quando ogni tanto quando mi scocciavano, il Grode diceva fai da bravo. E ci siamo sentiti avanti ieri con Antonio, anzi se l'ascolto lo saluto. A proposito, se c'è qualcuno che ha bisogno di qualche cosettina, abbiamo qualcosa da fare, un V131, qualche fesseria, capito? Quindi va bene, non bando io, bene, non ti ci fa vita in PMR, con i veicolari, il profondo scala già alle 20, oh yeah, riga disturba, già non disturba le vigili del fuoco, mentre lo gioco in chip. Io spegni il ricevitore, ma o parli o ascolti lì, spegni il ricevitore, spegni tutto, come aveva detto qualcuno al telefono, buttaci tutto, sì, è sicuro me. Ti ricordi il famoso potenziometri? Anche pure radio fratello libero, vabbè, mo, prima non ce ne posso spegnere, non posso spegnere niente io. Non lo spegne, io tutto acceso c'ho qua. Tutto, UHF, HF, HF, Simplex, Duplex, tutto sotto controllo. E tutto sotto registrazione, qua non si sa mai, meglio registrare. Non si sa mai che poi se ne neghino. Ah, perché tu avresti un registratore? Dimmi, marca, modello. Io? Registratore? Bobina direttamente, capito? Memorizza tutto, la radio stessa, me la che fa acceso, spingi, reg, registra e tiene memoria. No, rec, casomai con la C. Eia. A me piacevano anche i registratori classici, per esempio avevo trovato uno degli ultimi registratori a cassette da tavolo, però da tavolo rettangolare nero della Sony, lo metti sul tavolo, funziona con lo stilo e registri, puoi recitare, fare quello che vuoi, capito? Poi puoi mettere il microfono al condensatore esterno, quello a forma di gelato, no? Tipo quelli delle interviste. Carino, carino, al contagiri, insomma, mi ricorda quello che aveva mia zia negli anni 70, mi. Solo che quello che aveva mia zia dentro era tutto metallo, era pesante, ma pesante, mi. Marca Beaton, ma mai sentita, marca Beaton, questo invece è Sony, capito? L'ultimo registratore della storia a cassette, musicassette, mi. Sì, quello a musicassette, capito? Ce l'ho io uno di quelli, ce l'ho uno di quelli, devo buonare un altro dove la verte, mettevamo le cassette per ascoltare il corso della telegrafia, capito? E ce l'ho sempre conservato, me lo sono tenuto, lo volevo restituire alla figlia Laura, però non ho voluto, ma tieni, lo tengo come ricordo di babbo, me lo sono tenuto, ce l'ho dentro l'armadio. Tecnologia, infatti, hai detto bene, rec, uffici, e lui ha memorizzato tutto, poi si può tranquillamente ascoltare, va bene, grappa grappa, e Massimiliano allora, Massimiliano, ma avete già fatto andare? Sei occupato, da, già siamo qua, tanto ho capito che non uscirò. Beh, la bagasse, con i guanti non si riesce a mettere il mio blocco tasti, cioè i guanti felpati, perché io sono delicatuccio, no? E quindi, aspetta che me li levo, mi stanno dando anche callo. Cosa ti volevo dire? Poi un registratore a microcassette, ti ricordi quelle degli anni 80? C'è scritto proprio microcassette TM, trademark, perché è un marchio registrato. Sono quelle della segreteria, quelle piccole. E me lo portavo a scuola per registrare le lezioni dell'insegnante. Poi mi mettevo le cuffie, me lo ascoltavo più volte, no? Ripetevo, e poi quando mi interrogava dicevo, ripetevo la lezione come l'aveva detto l'insegnante, capito? Quindi, caspita, quello mi dava un bel voto, perché lo spiegavo come lo spiegava lui, capito? E per ultimo ho un registratore digitale Sony, quelli piccolini da taschino, digitale. Lì puoi registrare non so quante ore, un'infinità di ore. Non è stereo però, è mono. Eppure a me piace sempre il fascino della cassetta, quello da tavolo, piatto, mi intriga molto, capito? Beh, quello è il numero uno, quello rimarrà sempre il classico, capito? Però ti ripeto, con la tecnologia che c'è oggi c'è molto, molto meglio, non c'è bisogno di stare lì, cambia cassetta, fa. Prometto, ce l'ho diretto io. Gracias, era unico, Anton Abo. Gracias, gracias, Graciela, grazie alla Pipas. Ok, capito Marco, oramai sono la radio HF di ultima generazione che fanno tutto, quindi c'è uno spot per il contest, se non vuoi parlare, c'è la registrazione in automatico, in tutto, la puoi ascoltare, impostare, memorizzare, e oramai siamo a livello di computer. Sì, lo so. Addirittura il ricevitore ICOM, ICR, quello portatile, ICR 2000, come si chiama, non lo ricordo il nome, anche quello registra, premi il tastino e inizia a registrare in modo digitale, capito? Ed è già un po' retro quello, mi, non è nemmeno nuovissimo di concezione, già un po' datato, eppure registrava già. Prima alla fine Ramini voce a me di registrare il baracchino. Lo puoi fare giusto come favore uno, ti fa sentire come esce, però non rimandandolo in radio perché distorce, in verticale, cioè lo registri, poi in verticale li fa sentire come esce, capito? Tutto lì. E comunque c'è sempre una distorsione, perché come registri, bene o male, c'è sempre una distorsione, capito? Dovrebbe essere una registrazione a circuito chiuso per essere perfetta. Cioè, il microfono induce sempre delle frequenze parassite, non so come dire, mi. Vabbè, bisogna anche saperlo usare, se no se ti metti a fare rischi anche di fare un po' di casino. Io con la, adesso mi dico, non ce l'ho più, l'ho venduto, ho preso l'altro più grosso. Però come le due mi sono incasinato. Mi sono incasinato. Stavo mettendo il display, no? Quando lo accendi puoi scrivere il nominativo e tutto. Quando ho portato i puntini, ho scritto un po' di cose. E per cancellarla non ci riuscivo più. Ho dovuto chiamare la CSON perché era. Non mi si è impallinato. Mi ha detto come resettarlo, come toglierlo dal display. Quindi bisogna stare attenti. Eia. Oggi è sabato, vediamo se Gianni entra. Ma anche il sabato lavora. Mi sa di sì. Forse gli hanno dato il turno doppio. Proprio. Sembra fatto apposta, dai. Non so, ieri già ce l'avevamo. Ce l'avevamo oggi anche stamattina. E ho detto, il mio N 5280. E niente, non so se lavora anche la sera. No, ma non ci sta andando la sera, mi ha detto l'altro giorno. No, non ci sta andando. Ah, insomma, li ha convinti un po' a non mandarlo. Perché proprio. Già lì è costato quel vetro. A portare il cane a mettere il piede su un coccio di vetro. Già lì è costato. Chissà chi è il coglione, il tossico che poi ha lasciato, scusate le parolacce, chi è il tossico che si è bevuto la birra e l'ha rotta lì in mezzo all'erba. Appena un secondo so che è arrivata mia figlia, devo dire qualcosa, che poi scappa, rientra alle 2 di notte, un secondo. Eia. Ma lo vedi. Vabbè. Basta lasciarlo a 5 qua, fai non ammala. 1, 2, 3, 1, 2, 3. MB più 5. Più. Intec HR5005, prova radio. Sono io che sto facendo a Bulotto con l'eco. Ah, sì, Bulotto. Sento mai a Bulotto. A Bulotto guardi, non farò. Qui sì, vi fate una Bulotto. Fai da bravo. Fai da bravo. Andiamo un po'. Prova. E tutti questi apparecchi hanno l'eco uguale, lo sai. Spento. Proprio c'è lo scattino fa. Hanno l'eco uguale che ripete. Ma a me piace più questo che non quello elicottero che fa wow wow wow, cioè fa questo suono indefinito. Basta che sia molto breve, tanto io non lo uso, là. Lo uso per giocare boh. E beh, che dice l'aria? Che ne è venuto a prendersi la roba, perché stasera c'è roba in maschera lì da loro, capite? E quindi è chiuso. più giù da Chicago da Nive, ha detto prenditi la macchina piccola, ma c'è la qua quella grande, e c'è un po' di casino lì, non sa mai della tocca, mi la si sciaveggia, che è meglio, e niente, adesso va, ti volevamo andare ma c'è la Juventus. Oh, giù, mega ci muovi. E contro chi gioca? Juventus Empoli, adesso sta giocando al Napoli. Napoli Atalanta, bella partita anche quella, stavamo discutendo stamattina con Marco Giulio. Juventus Empoli, alle 8:30 è una passeggiata per la Juventus. Quindi non è bisogno di tre perette, l'Empoli va a Torino. A Torino non passa lo straniero. Ah, c'era Giulio, e come sta adesso? È ancora un po' raucidinoso, però già si sta riprendendo, beh, stamattina ci abbiamo fatto una bella chiacchierata. Già si sta riprendendo piano piano. Sente male, non è more. Eia, e io la mattina non accendo la mattina perché so che dormito, insomma. E vabbè. Bene, bene, bene. Mi sto stiracchiando. Cosa incredibile. Oggi alle 4:30 di pomeriggio ho pranzato, lo sai. Avevo fame prima e ho mangiato prima. Come vedi, quando ho fame prima mangio prima. Alle 4:30, sì, certo è tardi per rispetto agli orari normali, però vedi, ho mangiato un budino, frutta no, frutta più tardi, la mangio più tardi, capito? Ma così, vediamo bene allora. Oh, io sto iniziando a spegnere un po' di roba. Ho accesi tutti assieme, tutto acceso, no? Certo mia moglie si è spaventata. È tutto acceso, consumare corrente. Così parla mio zio, fa quella vocina, non hai capito, quando è ubriaco soprattutto, ma adesso che non ha soldi non beve più, lo sai. Vabbè, se non si mangia la tazza, ma vabbè, comunque, si vedrà, che te devo dire, ma che lo so, sì, aspetta a mangiare a Pippo, così mi ha fatto come tre piedi. Poi ti avevo mandato un messaggio, quindi non c'hai linea, perciò niente da fare. Ma se da mangiare a Pippo, secondo. Fai con calma. Chi è? Bene. Caspita, già le 6, i miei sogni di gloria infranti. Non so, le 6 un quarto. Sono sì un quarto, ma qua c'è festa, ci vedono le mascherine e... però anche l'aria adesso è venite, c'è festa, 50 persone ci hanno prenotato questa sera, siamo tanto nemmeno, minimo ne vedo la lettera di Mazzanucci. Eia, adesso mi si devo divertire, vai sul terrazzo, piglio una bella carabina 30-06 a ripetizione con un bel cannocchiale 4x e comincia a sparare sulla folla. E se nella folla c'erano le persone che dico io stai pur certo che l'avevo imparato subito, però ci sono troppi bambini. Ui, fissato sì, bisogna essere elastici, cioè prenderla nel di dietro che diventa elastico, noi poveri, oppure a pigliarla diventa elastico, no, il buccio. Ti ho detto che se la montagna non va da Maometto, Maometto già va dalla montagna prima o poi, a tutti di ci incontreremo. E Maometto, dove lo metto non si sa. Vedi, non piove, io sarei potuto uscire, fare quello che devo fare, però sono sicuro che se metto la testa fuori di casa inizia a piovere. Mi autopindaccio da solo, capito Claudio? No, ma non c'è da autopindacciarci, veramente. Cioè, è strano proprio che quella giornata l'ha fatto oggi, senza vento, senza niente. Perché freddo non ce n'è, io ho la finestra aperta. Perché qua come c'è la temperatura, non si può stare. C'è il riscaldamento acceso, quindi un po' alla fine. È freddo, non c'è. E voi dica la giornata, molto probabilmente potrebbe scaricare, cosa ti posso dire, stanotte oppure addirittura domani. Andiamo a vedere. Sì, infatti è presto, ancora non è detta l'ultima parola. Io invece ho paura per le macchine, per la macchina. Anche ieri o quando era, hanno bruciato l'ennesima macchina, questa volta in via, l'ho letto sulla Nuova, Pietro Micca mi pare. Cioè, da un giorno all'altro ti telefonano nel cuore della notte, la sua auto è bruciata, te le immagini? Cioè, per quanto sia vecchia la macchina, mi dispiacerebbe. Quindi c'ho paura, perché coprono un po' tutte le zone di Sassari, colpiscono un po' tutte le zone, i punti, Arbonassi, Latte Dolce, Sassari Vecchia, tutto fanno, anche in via Savoia ne hanno bruciato un paio. Angolo via Pasubio, qua vicino a me. Ormai c'è il motto. Il problema è se sei a fianco. Se sei a fianco a sfida di pesce o se sei una dietro l'altra. Due anni fa, forse anche di più, la mia Genova, la Torcia, ne ho bruciato una, la sua era dietro, è partita anche quella, le ha bruciato tutto il muso della macchina, ci ha rimesso la macchina, fortunatamente era assicurata per furto incendio e atti vandalici, una BMW 320, allucinante, capito? Perché poi noi che fanno il danno solo a chi devono farlo, no? O il, come si dice, lo sgarro, insomma, quello che devono fare, e che fanno danno anche agli altri che sono a fianco e non c'entrano niente, capito? Infatti l'aveva versata così com'era la BMW e se l'ha preso l'altra, perché c'era un pedirà, micidiale, oramai scegliere la macchina diventerebbe una cosa, non si capisce perché. Se c'è un problema con uno, a chi te la bigli quella macchina? Chiedi all'Umegu, loro ti posso rispondere, possiamo, capito, confrontarci uno con l'altro, lo vediamo, se sei bravo va bene, se poi sei handicappato, grazie di fatto la faccia a campione del mondo. No, ma secondo me non è questione di sgarbi o di racket, come qualcuno ha detto, ha affermato. Secondo me è delinquenza comune, capito? Si divertono così, mettono la diavolina, dice io bruciamo, che magari la vedono nuova, no? Una bella tipo cascai, come già era successo, e le mettono fuoco. Non credo che sia roba di coso, perché coprono tutta Sassari, i punti, cioè coprono un vasto coso, capito? Secondo me è delinquenza comune, proprio lo fanno per noia, come dicono poi in questura, ci annoiavamo e quindi bruciavamo le macchine, capito? Ma non vederlo, mamma mia, riuscire a beccargli la targa o a ciuffarlo, mamma mia, l'avrei buttato nel fuoco, in mezzo al fuoco della macchina l'avrei buttato, lo sai? Ma se canti dolci ci diceva tenere a 7 euro per bruciare le macchine, non hai idea tu, e quelli sono sgarri, a Sassari, che è pieno di dolci. E quindi ti cazzo con l'infia e fuggirà di uno a uno. Però guarda, nuovo quelle zone lì stanno facendo molti sgarri a politici. E se quel poveraccio, l'assessore di roba. Addirittura hanno anche sparato in quel caso. La giù abbiglia la mamma, ammazzane. E lì non perdonano. Guai, siamo buoni a parlare solo con la bocca. Con la bocca per cui sono buona a fare da. Sono poi faccia a faccia sicuri. Rimani manco lascia perdere. E vabbè. Lasciamo perdere. Beh, è Gianni, che sono? Sì, vecchi. Attento, doppio rutto. A Gianfranco invece, sempre facendo un scenetto. Gianfra, hai finito questo maglione? Sveglia. Sì, è vero quello che hai detto. Anche se le macchine sono in fila, cioè che sia che brucino quella davanti a te o dietro a te, ti fanno comunque danno, perché ti bruciano o la parte di dietro o la parte di davanti alla macchina. Poi se parte il fuoco brucia anche la tua, è un casino. È un casino, quindi si triplica il rischio, capito? Non è solo la singola macchina tua, ma anche quella di davanti e di dietro. Per carità, guarda. E una volta, anni fa, c'era uno che lo faceva bruciare la macchina apposta, perché lui era proprio un piromane, gli piaceva vedere il fuoco, vedere l'intervento dei pompieri, lo sai. Lo conoscevo di persona. E un macco era, macco proprio. Era stato anche dentro, perché l'hanno sgamato, ha pigliato fuoco mezzo palazzo e gli hanno dato la tentata strage, capito? Tu sei due stati fa qua, vicino a noi, palazzo di fronte. Sono entrati sotto, diciamo, a Puglia si chiama, una cooperativa, insomma, è nata assieme a questi. Adesso non ce ne sono più cooperative, sono tutte sciolte. E ci sono i garage sotto, interrati, sono entrati sotto. Hanno messo fuoco a un motorino nuovo, di una ragazza. Ma il problema sai qual è? Che questo motorino ha parcheggiato proprio di fronte alla caldaia. Le caldaie qua, oramai, in queste zone qua, sono tutte collegate alla marea, sono tutte a gas. Prima ci dovevamo tutte a gasolio, anche la nostra è a gas. Capito? Gas di città. Quindi tu devi vedere cosa c'era, mi ricordo alle 3 di notte, un casino d'estate, ma casino, vigile fuoco, di tutto era, polizia, carabinieri, ambulanze, hanno fatto evacuare tutto il palazzo, questi sono palazzi grossi, un casino, un fumo che usciva da sotto questo garage allucinante. Se parte la caldaia o se surriscalda la caldaia, vabbè che hanno delle protezioni allucinanti, ma ui ui ui, la gente non si rende conto che anche facendo una stronzata puoi creare un danno allucinante, puoi fare una strage. E caspita, se c'è il gas e salta tutto lì. Sì, certi dico, ma intanto non ci pigliani, tiamo fuoco al motorino, ce ne andiamo in fretta, da voi non si pigliano, capito? Così pensava quello che hanno preso l'incendiario. Carità, gente baccata al cranio. C'è anche solo quello. Così siamo senza macchina, senza soldi per comprarla. Per comprarla nuova, o già. Quando non c'è la coscienza apposta e pulita, non deve temere niente. Queste cose succedono chi ha in corso casini, capito? Già si arrangiano tra di loro. Marco, un secondo per andare in bagno, un secondo solo. C'ho la pastiglia, sale e scende a suoi matti. Fai con calma. Con il cuore. Non ho le pastiglie per le difese immunitarie, ma ogni tanto mi fa qualche scherzetto. Vabbè, cassa. Cicco. Cos'hai mangiato? Già pappato adesso. Qua c'ho sempre fame, mi sono preso una merendina con la... quella con ripiena albicocca. Con lo zucchero sopra. Mamma mia, questa non è proprio una voglia patologica di dolce. Dopo c'ho la simil Nutella, più tardi, forse alle 8, la simil Nutella, la metto sulle fette biscottate, è uguale a Nutella, uguale, però costa di meno, capito? Sì, per me il dolce è proprio una voglia patologica, mi piace, lo cerco, però, anzi, sai cosa faccio? Mi sa che con quest'anno nuovo mi faccio di nuovo un controllino del sangue, glicemia, le solite cose, dai, meglio tenerla d'occhio. Scusa. Atalanta 1, Napoli 0, Caldara. No, te lo danno perché sta guardando a benissimo mia moglie. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ma l'abbiamo parlato stamattina, l'Atalanta non è una squadretta, non è una squadretta. Comunque il Napoli, siamo a 42esimo, 40esimo. Ok, continuo a guardare, già ti seguo il formato. Ehi, giù, dai. Che questo è Bredemo, la mista, facciamo due chiacchiere con Marco, è così, però questa è già una buona notizia, così la Juve stasera si andrà a più 16. Vai Marcolino. Ciao Giulio, ben sentito dopo tanto, dai. Buona visione della partita. Ah, così Claudio, c'è tua moglie, sta guardando benissimo, quindi tu non la puoi guardare. Ma io te l'ho detto già un mese e mezzo fa, questo dei video sender, trasmettitori di un video, e ma non c'ha mai tempo andare a trovarli, a prenderne uno. Già ne hai di tempo la sera, anziché stare al baracchino, vai da Oshan o andiamo da Oshan, se vuoi un consiglio in più, o da Media World, ma Oshan c'ha prezzi più popolari, capito? Lo prendi, lo installiamo, di lusso, ti guardi la partita mentre tua moglie si guarda la De Filippi o le altre cose, te la guardi lì in camera computer. No, abbiamo già deciso, ho già deciso, se si fa fare di qualità, ho già deciso, adesso appena ho 5 minuti, intanto guardo con mia figlia, che c'ha lo sconto lì. Perché hanno preso tutta l'attrezzatura lì al Freiberg, capito? E prendo un parete da 42, boh, da 36, vediamo, con la scheda già incorporata. Non faccio altro che togliere la scheda dal salone e metterla qua, me la guardo come cristiani, capito? Le partite. Un bel televisore, tutto paletti, oddio, diciamo, parete, bello, da attaccare a parete, quanto una cartina geografica, insomma, grande, sulle cartine grandi. E così abbiamo fatto l'unplugging, se no non mi vengono di Cipiro. Ma passava con l'aggeggio. Adesso che televisore hai in questa camera? Ho un 22 pollici, cos'è? Il computer è un molto così, capito? Indipendente, però non posso mettere la scheda. Non posso metterla perché non è la di scheda, devo mettere un altro vettore, non mi piace fare. Capito? Guardo così, canale 5, 1, 2, 3, quello che c'era. Le partite non le posso mettere. Ah beh, piccolino, se vuoi cambiare il televisore fai questa cosa qui, lo prendi con la scheda. Mi raccomando che sia compatibile con quello che hai tu, che sia, cos'è il tuo Mediaset Premium o Sky, che sia perfettamente compatibile, accertati. E allora hai fatto l'unplay, dai. Sì, c'ho la parete qua, stasera tanto non c'è più mobile, non c'è più niente, la stanza è vuota. Quindi c'ho la parete dall'altra parte dove sono le cartine, tolgo una cartina e pare che sia 170, adesso non mi ricordo, ma cos'è, c'è grande. La metto sul lato radio e lì metto la TV. Agganciata la parete, ti do la presa, c'è tutto, capito? E qui sono a posto. Mi guardo quello che devo guardare bene, dai. Non si vede bene, questo è un televisore. Però no, non c'è l'affare per mettere la scheda come quello del salone, capito? E quindi voglio fare una cosa fatta bene, dai. Gappa, tanto lì c'è lo sconto, quindi vado e me lo prendo con lì, adesso vediamo, garantendo questa cosa, che voglio uscire tranquillo, no? Con rigore, uscire a mezzogiorno, dopo mezzogiorno, la sera dopo le 7, ci voglio andare la mattina. Eia, va bene. Se fai così è anche buono, almeno c'è il televisore grande, la partita si vede meglio. Non c'è dubbio. E Pomponio non è più entrato, non lo sento da un po' di giorni. L'altro giorno è entrato, stavo facendo le prove, e ho detto io che c'era qualcosa che non andava in PMR, perché eravamo qua, mi ha detto, voi va sempre avere più scelto, ecco, ma segnale arrivava 9, capito, arrivava 9, e poi è andato a controllare, c'era l'antenna in corto, il cavo, non so, IPL, qualcosa in corto c'era, non so se l'ha messo a posto. E lui c'ha il cervello in corto, ma come mai lui? Cioè io ho sempre fatto le cose semplici, no? Quando ho messo l'antenna lì, no? Ho messo il cavo a cacciatore, me l'ho saldato io, piano piano, e lui c'ha sempre qualcosa fuori posto, di cavi, di spinotti, come può essere? Io c'ho tutto a posto qua, a meno di quella roba lì, quell'impianto lì, PMR. E lui c'ha sempre i cortocircuiti, boh. Io sono come il calzolaio. Tu c'hai il cortocircuito del cervello, Pomponio, non è l'antenna, no? Allora, buonasera a tutti e due. Comunque, parlati. Beh, risolto, Antonio. Sì, sì, al PL era. Siccome ci ho dato un piede di quelli che sono piccolini, quelli piccolini, gli agganci del 58 e non toccava il polo caldo, sono saldato con quel saldatore del Lido, è perfetto. Eh beh, sì, vuole saldato il centrale, Antonio, perché sembra o lo pieghi e lo fai entrare a forza in modo che faccia contatto, ma se lo lasci così a puntare non va bene, va saldato, se no non fa contatto, capito? Così per fare una prova lo puoi piegare al contrario e allora insomma il contatto lo fa, ma se no no, quindi lo devi per forza saldare. Vabbè, l'importante è che sia un PL, beh. Un PL è una cosa normale, può sempre andare in corto, non è che male quando le antenne non vanno bene, capito? Avanti Marco, hai visto? È sempre un agguato Antonello, eh? Non parlare male, tu cioè, te lo sai, è il mio vicino di casa. Ma non entra mai, è sempre in agguato, ma non entra mai. Io perciò ho detto, non lo sentivo da qualche giorno. Lei, sì, PL, vabbè, centrale va saldato, è obbligo. Per esempio io non saldo la calza, perché come avvito lascio la calza dritta, no? Senza tirarla indietro. L'avvito, siccome la vita è bella stretta, no? La calza è bella serrata, non c'è bisogno di saldare, però il centrale è d'obbligo. E deve essere fatta anche bene come saldatura, dai. E poi va tutto a posto. Bene, bene, vai Antonè. Sì, raga, no, è a posto quello. Grazie a Dio è a posto. Poi l'altro giorno mi sono recato a farmi la visita qui al Sanatorio Conti. Mi hanno trovato la placca, mi hanno trovato, mi faceva male, sempre il collo, diventava duro, me la balla, ogni tanto. C'ho la placca e poi una specie di cosa strana, hai capito? Mi ha detto il medico, non è niente, non ti preoccupare, ha detto sì, sei tra me. Ecco, ha detto, non mi ha voluto dire niente, comunque gli ho detto, sto facendo la commentazione per l'aggravamento, ha detto, quindi già mi sta anche bene, mi pare di durare. Beh, ma il medico non mente, se c'è qualcosa te lo dice, è tenuto a dirtelo, se no te lo dice che non è nulla. Guarda che nel collo i sardi hanno un bel di, come si chiama, hanno un bel di noduli i sardi, capito, nel collo, se ti riferisci a quello è una cosa normale, noduli, noduletti al collo, alla gola lì, capito, non è niente di che, chiedilo a Claudio. Parecchi, parecchi, e se si infiammano è anche un casino, un bel casino. Sì, il fatto è che ogni volta la mattina quando mi alzavo sempre a coso, sembrava che avevo avuto un incidente il giorno prima, mi sono fatto controllare a YouTube, che già per la, meno male le antenne sono libere tutti e due. Io ho fatto tutte le visite, adesso sono in cura proprio per queste cose. Però stai attento, colpi d'aria, infezioni, mani sempre pulite, quando si portano la bocca, perché ci sono le batterie allucinanti in giro. E ecco, lo chiamo sopra, andiamo, stavo accodando, aspetta un attimino. Massimiliano, sono handicappato, ma te hai scritto che so Strong, invece scrive Strong, very strong, Strong, non può handicappare il credente. E può scappare dalla fretta, dai, aspettami, ecco, che mi aggiusto il pantalone qua. Se dovini cosa vuoi in mano te ne do un pezzo. Io magari mi piace, può essere buono. Cresciuto. Se tu invece di scrivi 59, è scritto 579. Scrisci. Per, non lo sai, cazzate che scrivono le carte, non hai idea di... Ammetti che volesse dire radio 5, segnale 7-9, oscillante, come dire 7-9, capito? Oppure un errore, un banale errore. Ma no, sono pari, 5, 3, 7-9, oppure lo separi, come faccio io, lo separo, come col trattino, 5-9. 579 tutto attaccato, uno che legge stronzate, capito? Vabbè, comunque sono sempre qua nel guato, sì. No, sono contento che non ho perso il logo, mamma mia, quanto sacrifici a non mettere su qualche canto. Meno male, perché già funziona tutto il cuore. Ma cos'è il log dei collegamenti fatti? Allora, collegamenti fatti, i country sono nazioni, capito? Isole, c'è di tutto. Se andavo a perso mi dispiaceva, non sono un grande di essersi, comunque quello che ho fatto è fatto. C'è anche dei country a lunga distanza. Certo, non un riffello di quelli che veramente fanno gli eccessi a livello mondiale. No, mi dispiaceva perdere i collegamenti fatti, capito, anche perché c'ho le QSL. Sì, altro il computer, una volta era cartaceo, prendevi il libretto e scrivevi tale stazione, ora tale tali, segnale, modo di emissione, tutto bello, cartaceo, ti rimaneva in mano. Il computer, cazzo, bastava uno sbalzo di corrente, puff, perdi tutto, capito? A me piacerebbe più farlo cartaceo che se non stare a zuffarmi col computer, anche perché se sei in macchina, vabbè, tu dici usi lo smartphone, bene o male te la cavi. Basta un taccuino e ti annoti la stazione, capito? Ma non lo so, dipende dai gusti. Ma già un principio, ma dice ce l'ho elettronico, non ce l'ho quello, ce l'ho ancora. È conservato pure. Primo QSO, 1993, giugno 93, su tutto. Il S0 si è da WikiWiki. Avevo battezzato lui VHF a 525, capite? C'ho tutto scritto, ce l'ho. Poi con il computer è molto più dai, aggiornato in tempo reale, molto più veloce, perché stai trasmettendo, digi nominativo e via, e famo già la playa. Là dovevi avere il coso a pedale per poter scrivere, capito? O che ancora oggi già si usa. Grandi radioamatori di XC a livello che tu ben conosci usano sempre il pedale, io ce l'avevo tolto, no, non faccio niente. Il pedale? Sì, pittiti a pedale, come cacchio fai a scrivere? Ah, è vero. Maurizio ne aveva realizzato uno, mi pare, da poco, di PTT a pedale. Ah, sì, giusto, quindi premi, parli, poi scrivi, hai le mani libere per scrivere, annotare, eia. No, avevo capito l'altra, scriveva una pedale, cos'è, una macchina da cucire? No, PTT, io ce l'ho, bello veramente, in ferro, ma bello veramente, un capo lungo, bello, l'avevo tolto, ma ce l'ho dentro l'armadio, bello, mi ha regalato Roberto, molto quadrato. Bello veramente, non ho mai visto così, un bel robusto. Eia. Eia. Sì, no, tutta mano, poi se c'erano controlli di abilità qui, non loro verificavano. Gli organi di controllo. Eia. Che macchina, o si tiene un taccuino o uno smartphone, in qualche modo avrà un cluster, non lo so come funzioni, magari anche con lo smartphone riesce a notare in fretta la stazione. Boh. Ok, ma oggi sono tutti addito, infilato dietro, non entra nessuno. Io non mi preoccupo, sto chiacchierando, c'è Giulio l'ascolto, gli altri vedo che sono gli altri. I soli T3 sono sempre lì in PMR, sul 20 non c'è nessuno, dal 23 non c'è nessuno, c'è un DAC. Ah no, la mara, c'è un DAC acceso, ho la antenna. E vabbè, musica, qua c'è musica, no, quello molto veloce in macchina è Vittorio velocissimo. Vittorio scrive, non è che computer, scrive, e poi quando arriva a casa si riporta al computer e poi manda le QSL. Fine primo tempo, 1-0 per l'Atalanta, grande sul di stati territoriale dell'Atalanta, tutto il primo tempo, solo nel finale il Napoli ha avuto un'occasione, ma addirittura l'Atalanta nel corso del questo primo tempo ha collezionato tanti angoli, hanno finito addirittura 4 in seguito, uno dietro l'altro. Il Napoli lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, una squadra che manco te l'aspetti, basta un tiro di Mertens, Insigne e Ghisci non sbagliano, non sbagliano, vabbè, meglio per noi, si allontana ancora di più, dai, avanti Marco. E io. Mo che facciamo, che diciamo? Giovedì, adesso sono 7:10, dopo c'è il secondo tempo del Napoli, io ho già da mangiare, 7:30 all'aeroporto, 8:20, così mi salgo per tempo, imparecchiamo, facciamo, guardo la partita e domani domenica si vedrà, cosa vuoi fare? Vedo dove mando giù. Certo, prego da vuoi fare, ma adesso. Comunque ha giocato molto bene l'Atalanta quel primo tempo, molto bene. Ci sono stati dei momenti che l'ha inchiodata in aria a Napoli, proprio padrono del centrocampo l'Atalanta, ha fatto un bellissimo primo tempo. Speriamo che tenga anche il secondo tempo, che lo sa, vedremo. Ma se perde con l'Atalanta non c'è Cristo per Sarri, Già. Sì, i giocatori gli hanno dato fiducia rispetto a quello che il presidente poteva sicuramente fare. Non lo giocano. Se perde oggi in casa o pareggia in casa, sono dolori e per Sarri. Sì. Gli aveva sentito tossire e da lì pensa dopo si prende lo sciroppo e dice devi parlare ancora piano, poco, non forzare Giulio, perché io la prima settimana ero molto male, poi pian pianino, vabbè, io non ho la sciroppo, la puntura ne ha già fatto dei 10 punture di penicillina e antibiotico a tutto andare, quindi però mi raschia molto, sto parlando piano, non grido perché non fa. sempre l'alito e diciamo, disinfettato, ecco. Non si sa mai. Non aveva passato un po' questa accidentiaccia dell'influenza, vediamo bene. Ma Marco si è allontanato. No, ecco qua, Marco. Sì, sono qua. Io ho passato solo una leggerissima tracheatite. E un po' il freddo mi pulsava, un po' mi dava fastidio. Solo col freddo, poi stando al caldo è passata, ma è stata una cosa proprio en passant. Io sono già un bel po' di tempo, sono già quasi 2 settimane così, quasi, due settimane. Prima, la prima settimana mi è durato un paio di giorni, 2 o 3 giorni, sembrava che stesse passando del tutto, invece a quanto sembra ha ripreso, forse ha preso le cadute, che ne sono. Eppure non mi sono scoperto, non ho esagerato niente. È il virus, è un virus che c'è in aria ormai. E forse deve fare il suo decorso. No, influenza a me è ancora niente. Vaccino non ne ho fatto, mamma l'ha fatto il vaccino. Però il problema è che di influenza ce ne sono vari ceppi in giro, non è solo uno. Il vaccino vale solo per un ceppo, quindi se uno si prende l'altro ceppo di cui non ha il vaccino lo becca lo stesso. È un macello perché il virus muta continuamente, capito? In base a dove si insedia, muta, può mutare e poi alla fine ci troviamo vari tipi di influenza in giro. Lo so. Mi ha ringraziato il dottore, perché se può fare era andato al dottore per altri motivi. Mi ha detto se facevo il vaccino, ma no, non ho mai fatto io il vaccino per l'influenza, dunque non le faccio nemmeno adesso. E poi la scheda che aveva ragione lui, chi lo sa, e la voglia già passerà avanti qua. Tutta la scuola gli è andata a andare a mangiare il cane. No, no, prima gliel'ha dato. Ehi, forse sta parlando in verticale, dai. Bene, bene. Questa notte vediamo cosa c'è in TV. Tanto la partita è tutto a pagamento. La Juve. È un'ingiustizia però perché tanti anni fa, negli anni 70, 80, anche 90 era libero. Libera tutti, adesso chi guarda vede le partite, chi non paga non ne guarda, capito? Tutto a classi sociali, i più abbienti si possono pagare le partite, i meno abbienti non ne guardano, capito? Ma non esce il microfono, si è bloccato. Purtroppo è così, con questo avvento delle TV private, hanno inventato la partita a pagamento, giustamente chi non ha l'abbonamento non c'è niente da fare. No, comunque diciamo che qualcosina si può vedere anche nel tablet, solo che bisogna mettere l'app che ci vuole, io gli accendo lo stesso, però le tablet sono un po' piccole, la televisione sono molto scorte. Anche le altre, io la guardo la televisione perché almeno la vedi bene. Sì, poi ci sono alcuni siti pirata che ti fanno vedere la partita in tempo quasi reale, praticamente reale. Bisogna saperli trovare. Io avevo un tablet che lo collegavi alla TV e vedevi sulla TV lo stesso schermo del tablet, in grande però, e mi è stato rubato da un amico, un ex amico diciamo. Allora, quegli amici è meglio non frequentarli, contiene gli amici, per carità. No. Lo so. Sì, perché c'è anche quella possibilità, comunque ho detto, è vero, si può attaccare anche la televisione, no? Lo vedi a immagine grande come quanto il televisore, insomma, ecco. La diretta nel senso quella a pagamento è tutto un altro discorso, anche se costa 25 euro, però diciamo che ce l'ha, è anche l'acquisto, se lo puoi vedere sono un campionato a 15 euro, su premium questo. Sì. Eia. E vabbè, pazienza, sì, infatti è meglio scartare, scardare una scremata le amicizie, dai. Sì, me l'ha fatto sparire, non so se se l'è venduto, se se l'è fatto in soldi, sparito è. Dalla fine dell'estate, sparito. Peggio per lui. Peggio per lui. Claudio, ci sei? Sei rientrato? Sì. Avevo sceso mia figlia a portare il cane, poi stava piangendo. Ho mangiato. Ho aggiunto qualche cuscio. Ma che è abbaia? Devo dire la tapignara, ascolti lo più lungo. Tu prima devi passare su di me, non sulla tapignara. Ciao Claudio. Ciao già, chi è Cabaia? No, un cagnolino legge giù. No, Filippo, era coricato, si è alzato piangendo, nella porta. Allora l'aria era messa qui, gli ho portato giù, buh, se non è giunto qualche cuscio. Ciao già, buonasera, sono io Marco e Giulio. E allora, buonasera a tutti, cordialità. Doppio rudo da questa parte. E niente, dai, stavo facendo vedere un amico, stava la stazione, come funzionava, come era di notte, tutto quanto. Mi è piaciuta molto, adesso lo conta e se la faccio prendere anche a te. No, non ho capito, cosa gli è piaciuta? La stazione. Ah, il baracchino, sì. Io ho detto stazione, non baracchino. Ci sono da parlare di autore o già, ciao già. Già, questa stazione è la stazione a Chirivani, sala radio, ok? O posto radio, visto che tu cioè non c'hai la sala. Vabbè, chiamatela come volete, c'è sempre chiamata stazione radio. Ciao Giulio, buonasera, c'è un pezzo di te. Appunto. Perché non si cade mai i diritti di autore del mobile. Quando tu illustri la stazione radio c'è anche il mobile e dunque è completa, per cui i diritti di autore sono sempre per me. Sto scherzando, già ci mancherebbe. Già lo so che mi hai pagato tranquillamente, non come qualcuno ha detto che ti scritirate, che te li ha mandati in aria, ma quelli sono miserabili, è un altro discorso. Vabbè, avanti ancora già. Giulio, sono geloso, io ho diritti d'autore e non ce li ho perché non te l'ho pagato, non ho capito. Tu non mi devi pagare niente. Secondo qualcuno ha tolto quella voce, ma sono gente miserabile, sono gente miserabile questo, vabbè, comunque lasciamo il prete, intanto la mondezza sempre dentro un cassone che c'è fuori, lì, in tutti gli angoli di Satana. Si conferma. Allora, noi quando puliamo qua le radio dobbiamo sempre pensare ai diritti di Marco Giulio. Capito, mi hai Marco? Tu invece che a diritti vai? Diritti di un gommolo. Eia, qui c'ho un tavolino, un portatelefono in legno, non si sa chi l'abbia fatto. Magari roba del mercatone, quello che adesso si chiama Conforama. Eia. Bene. Ehi, non c'ho spazio, un casino qua. Non abbiamo l'idea dell'ordine a casa, capito? È sempre tutto provvisorio, tutto... Si abbotto, c'è da... Carlo, questo qua, se la volete, ha segnato Caldara dell'Atalanta, è che Caldara è della Juve, mi dico, sai, già acquistato quest'anno e il prossimo anno va a Torino. E anche l'altro, come si chiama l'altro, non me lo ricordo. Comunque due giocatori dell'Atalanta sono già della Juve, compreso quel Caldara che ha segnato oggi. Attaccante anche quello? La Juve Caldara. Allora, l'ha comprata quest'anno, solo che l'ha lasciato per tutto quest'anno, tutto questo campionato, se lo riprende al prossimo anno. Sì, ma che ruolo fa? Che ruolo ha? Ma se devo essere sincero, non lo so nemmeno io, so solo che è un grandissimo campione. Adesso vediamo un po' se riesco a stabilire in che ruolo sta giocando adesso nel secondo tempo, che fa un po' inizia. Sono tutti attaccanti con pareggia sta Juve, lo già vuol fare, 5 attaccanti vuol con il campo Allegri. Boh, allora serve sempre un centrocampista. Capito? Sempre quello serve per aiutare un po'. Va bene. E allora Gianni, che si dice, che si dice? Gianni ha fatto vedere la stazione lì, ha fatto il biglietto ed è già partito. L'amico gli ha fregato la stazione, lo sta inseguendo Gianni. Così è, quella è stazione allora. Cosa devono dire, metropolitana in superficie? Sì, io non ho mai voluto anche stazioni ingombranti, coso, no, assolutamente. Ci ho sempre messo un baracchino e un alimentatore. Bello, pratico. Pratico anche da imboscare, a seconda di che baracchino è, non incollato a legno o con biadesivo. vabbè, perché il vostro hobby è diverso dal nostro, dal mio in particolare. Io ho questa stanza, chiudo già lo so, quindi mi limita solo a sala radio, questa è una vera sala radio. C'è tutto quello che serve, ci sono tutte le radio che serve. Chiaro, non puoi venire un baracchino, e noi già ne vai del baracchino. Capito? Però anche Giulio, se vuole, con tutti quei baracchini che c'è, tutte le cose che c'ha, si fa un bel mobile, ti cura tutti i tiri, ma non ne frega niente. Usa quello che deve usare e ciccia, capito? Vedo un altro giorno. Claudio, è un difensore Caldara, dai, si è posizionato in difesa. Dunque è un giovane che sta che ha acquistato la Juve, perché vuole rinnovare anche la difesa e anche il centrocampo la Juve, no? Perché ci sono i vari BBC che sono un po' anzianuti, no? Bonucci, Chiellini e l'altro ancora, capito? A momenti secondo voi, porca miseria, dai, io continuo a guardare la partita, li prendete, già vi tengo formato dopo. Già è ora di rinnovare Bonucci, Chiellini e Balzacchi, è storica ormai la difesa della Juve, quindi è giusto così, vabbè, non lo sapevo che avesse acquistato anche un difensore, vabbè. Ok. E quindi Marco, come mai poi non hai pranzato? Cos'è? Non ha preparato l'IU? Ma allora tu non mi segui, io ti ho detto che ho pranzato alle 4:30 di pomeriggio. Ah, avevi già pranzato e non ti ero seguendo nel seguire. Ehi, perché l'abbiamo detto all'inizio, sì, ho mangiato il pesce, il filetto di merluccio, in verde, e poi un budino, così, frutta no, banane, eravamo da Lidl, le potevamo prendere, ma qualcuno non ci pensa. C'è sempre la testa per aria, va bene, non fa niente, ai genitori si perdona tutto, io mi stavo guardando le offerte invece, e quindi alle banane non ci ho pensato, alla frutta. E cosa ti volevo dire? Sì, poi vabbè, durante la serata mi sono mangiato già un altro budino e una merendina lì con l'albicocca qua dentro. Niente dolci. Stamattina ho fatto colazione, arrivo a pasta, adesso solo cena, e tutto letto, partita, e a domo. Ehi. Ma già riesci a dormire tu o aspetti tua figlia a sveglio? Sono tornato, stavo ammazzando un pollo. Ah, come? Due pollo, 4 ore e 49 centesimi. Altro dello spie. Ehi, ho detto Claudio. Lui? Ho detto, ma tu riesci a dormire tranquillo, aspetti sveglio che arrivi tua figlia? In certi momenti, prima sì, ma adesso... Perché mia figlia non è di quella che esce molto, capito? Esce con il ragazzo, quindi io sono tranquilla, anche se rientra alle 3-4 di mattina, ma è molto difficile perché Mario non fa mai più tardi dell'una, così. Però niente, adesso non più, prima sì, quando è fidanzata, adesso ha 4-5 anni a questa parte, non mi preoccupo molto perché non esce mai sola, capito? Esce col ragazzo, la Maria non beve, non fuma, è proprio astemio del tutto, e quindi sono tranquillo. E poi adesso vedi che lavora, stanno che lavoro, è minimo di entrare alle 2 se ce la fanno, perché c'hanno una 50ina di persone, stanotte poi c'è la festa del carnevale, perciò Perché alcuni genitori, anche se i figli sono grandi, si abitano con loro, stanno con gli, svegli e proprio non riescono a dormire sapendo che i figli sono fuori e li aspettano, come la, madre di un CB era così, un CB diciamo coetaneo, magari lui faceva tardi, non avvertiva, adesso tornava alle 3 alle 4 di notte, trovava lo spettro nel buio del corridoio che lo aspettava, mamma mia! Ma il mio genitore tranquillo dei propri figli non deve avere problemi, Marco, io ho sempre dato fiducia a mia figlia e lei me l'ha sempre data, ho sempre saputo dove era, con chi era, a che ora rientrava, nonostante fosse maggiorenne. Io i vicinetti e quindi non mi devo preoccupare, dai, sono tranquillo. Però doppio root. No, sai cos'è? Che non è solo il fatto di magari tornato di posizione dell'incidente, quello che ti ripensi, capito? Ma ci ha manipolato un coso. Pensi sempre a queste cose, quando tornano io controllavo sempre, mi alzavo e controllavo, dai, se Manuela la tornata c'era nel letto. Molte volte torno a vantaggio, dico la verità, quando andavo a ballare, cose del genere, tornavano anche alle 4, roba così. Stavo un po' in tensione, mia moglie lo stesso, dove sei? Telefonavo, dove sei? Ma sto arrivando, dai, sto per arrivare, poi magari si torna a fare un ragazzo, ci tratteneva noi aspettando, lui, poi alla fine abbiamo perso di speranza, perché non ce la facevamo più aspettare in realtà. Ho capito. Già, purtroppo sono quei genitori, sto consigli che Daria ha preso la partenza a 18 anni e c'era subito la macchina, quindi ho un pensiero ancora più preoccupante, capito? Però quando esce con il ragazzo, quindi non mi preoccupo, se esce con le amiche una volta al mese che fanno qualche bici così tra amiche, non è di quelle che non mi preoccupo. Già sto sempre allerta, è la verità, sono un po' rompiballe, però già non mi preoccupo più di tanto. Adesso però questo lavoro è sempre impegnato, quindi adesso stanotte c'è festa, ma è lì, quindi da una serata qua già in macchina. Perciò non problem. Ehi, caro Marco, uia, e allora ai tempi miei di Gianni dovevamo dire dove eravamo, con chi eravamo, a chi rientravamo. No, ma era molto severa, se considero sono nato senza padre, avevo 3 mesi quando è morto mio padre, mamma voglia di pantaloni, e chi chiava voce, no? Se sgarravi erano dolori, mi manco. Oh, di qui, è come con la cintola, col roccio. Con la cintola, col roccio, a mani mi fu via. Io sono fatto cintola, ma ti fanno, insomma, così. La macchietta della bomba. Una volta mi ricordo che ho preso una notte, il capitano ha preso il tasto, tutti e due, chiama te Bonescini, diceva se non stavo a mettere Bonescini per ostacolare, e alla fine mio padre è caduto, caso quello lo siamo fatti, i due, mi hanno preso il tasto, io sono saltato sul letto matrimoniale, uno non ha fatto, non ha andato, lo tirava il cinghiate e lo ha con il battipatti, quello è lì, inizia. Adesso brutta era la poppa già, mamma mia, battipanni no mamma, battipanni, cugiurai no, facciamo tutto, tutti facciamo, anche il maestro, quello per girare la pasta, lei me l'ha cotta a capo e si è fatto in due. Ok, già, ma la poppa qui, la cinghia che ho fatto già, lui, no, secondo me era troppo possibile allora, è troppo permissibile adesso, ci vuole una via di mezzo. Ehi, già, ma tu, quella volta del letto, cosa avevi combinato? Te l'ho detto, avevo preso una volta a scuola. Mio padre mi ha detto, disgraziato, perché parlava in galera, brutto disgraziato, guarda tu, sei andato a prendere la notte perché hai fatto casino. Mi è andato a picchiarmi, mi stava seguendo attorno al tavolo, io giravo, cosa facevo? Mentre giravo, prendevo le sedie e le mettevo in mezzo per non farlo, per ostacolarlo. Cosa è successo? Che mio padre è strappato, perché è andato per spostare la sedia e già messo in conto anche la caduta mia. No, vabbè, voi siete più grandi, no, qua no. Per una notte al limite alle elementari, così mamma un po' mi aveva sgridato, ma niente di che. Sì, i vostri erano ancora più severi, caspita, per una notte da ticodiani, a cinto, a pompa, tutto quello che capita. Oh, ma va detto, una compagna di scuola delle magistrali, che è di Florinas, no? Stiamo parlando dell'anno di grazia 88, 1988, no? Ha detto che la madre la picchiava col ferro qualche anno prima, quando combinava qualcosa, ma io non capivo il ferro, se era un bastoncino di ferro, no, no, il ferro a stiro, proprio tirato a schiena, cazzo, che genitori. Ma dai, quello è una cosa. Io mi ricordo che una volta ero al mare a casa di un amico, avevo un figlio che era una molla, praticamente saltava sui divani, una molla ce l'ha presente, cioè era una cosa che non potevi far male, non riuscivi a seguirlo proprio. Beh, fatto sta che questo figlio si prende la merendina e c'era Marcolino piccolo e gli ha detto dai una merendina a Marco, non ce n'è più, c'è solo questa. No, dai, non aspetta, no, brutto asino che non sei altro, il figlio sai che ha detto, asino sì, tu i mani l'avesse detto. Cazzo, beh, ho un filo elettrico, ti recupero la giusta filo elettrico, se non lo fermo io, va, mi sono messo in mezzo io perché... mi sembrava troppo violenta la cosa, se no lo aveva asciutto qua. Tu non ti devi permettere di andare a me, capisci, per elettrico. Sì, parla qua, telefono azzurro e tarvezzami. Cazzo, il filo elettrico è come la frustami. Cazzo, con un po' di mani. E c'era un pezzo di filo, mi sa che non me ne è capitato, che se l'ha pigliato, che è la luce a finire. Ma il figlio, ti posso dire, aveva 9 anni, 10 anni, così, capito? Però gli ha risposto, era di quelli, mamma mia, no? Detto, beh, poi si è calmato. Sì, grazie a Dio, si è messo diventato sereno, tranquillo. Ma prima che non ce l'abbia fatto uscire gli occhi, di tutti i colori l'ha combinato. Mamma mia, che roba! Ma con la molla ce l'ha presente, io guarda, ci sta, non riusciva a seguirlo con lo sguardo, saltava dalla parte all'altra sui divani, anche quando andava a casa sua a Sassa di cavolo, perché questa qui è una coppia che si è sposata lo stesso giorno che mi sono sposato io, noi di mattina e loro di sera, infatti ci avevamo diviso i fiori dell'altare, avevamo diviso la spesa e avevamo pagato metà per uno per non spendere due volte, capito? Tanto i fiori sono freschi, sono della giornata, quelli che ci avevo io ci ha preso lui e quindi ci siamo divisi la spesa, no? E poi siamo diventati amici, capito? Insomma il figlio era una scimmia, così è, saltava da una parte all'altra. Scimmia di le fortuna, tipo lo scoiato, ce l'ha presente così. Mamma mia, cazzo, certo che, mamma mia, per certe cose le punizioni erano anche troppo severe, io ho visto nell'anno di grazia 86, c'era un CB, zona Lugulento, che ha picchiato il figlio era compagno di scuola mia delle medie. Una volta non so cosa ha fatto, vabbè, era una fesseria, l'ha pigliato davanti a me proprio a pugni a schiena, a pugni a schiena, amico, un spiritato sembrava. Ma diciamo che mio padre non era cattivo, era severo, era molto severo. Io mi ricordo sempre una volta che mi ha detto, allora a cena ci voleva tutti quanti insieme, poi potete anche uscire, però a cena lui diceva che la famiglia la vedeva unita a cena e voleva tutti insieme, praticamente. Perché tutto il giorno era lavoro, non ci vedevamo, e allora l'ora di cena doveva essere praticamente tutti insieme, ci voleva vedere tutti lì. corsia, se non mi posso aspettare di 5 minuti. Mi ha detto, guarda la sveglia che ho adesso. Io gli ho detto, beh, guarda che la cavalla. Fatti via cavalli. Io ero già 28 anni, 29, non l'ho mai educata. Basta solo lo sguardo, non se ne sollevo appena la voce. Ancora oggi. Massimo rispetto. Capito? No, non c'è bisogno di prendere i colpi. Basta solo il rispetto. Ma poi dicevano, anche ai tempi vostri, di Gianni, insomma di Claudio, cioè queste cose di filo elettrico, pompa, nervo di bue, cioè sono eccessive, cioè se devi svegliare tuo figlio dagli uno sculaccione come si faceva una volta dietro, se quando è un po' più grande si gira male dai uno schiaffo, ma adesso è uno schiaffo paterno, no, cazzo, Ferrero Stiro, filo elettrico, chi più ne ha più ne metta. Cioè quelli sono proprio strumenti di tortura. Ma sono pericolosi, ma prima era così, adesso non esistono più queste cose, anche perché non le puoi fare determinate cose, i bambini vanno trattati con educazione, con modo, soprattutto di farle capire le cose parlando, non picchiando. Quindi evidentemente i nostri genitori hanno abituato in quella maniera, però ti ripeto, mamma aveva molta forza sia fisica che morale, perché eravamo in 5, 3 donne e 2 maschi, si è trovata sola a 30 anni, ok, quindi vedi tu, perciò insomma ci vuole anche forza per poter tirare sui figli con molta educazione, con molta, non abbiamo mai avuto nessun problema, niente, di nessun tipo, capite? Sempre ordinati in tutto e per tutto, quindi non ho mai avuto problemi con giustizia, sai, in certe circostanze quando manca un padre, la madre non ha il posto per poter andare avanti la situazione, in molti casi la cosa si ribalta, i figli diventano delinquenti, addirittura picchiano la mamma, rubano, fanno, e questo non deve succedere se una famiglia è unita, se una famiglia è educata. Eia. Io, aspetta, sì, già è libero. Io mi ricordo che il fratello di una mia ex era di quelli irriducibili, li potevi gonfiare di botte, niente, continuavano a fare di tutto e di più. Il padre aveva detto, io getto la spugna, che mio figlio non capisce nemmeno con i colpi. Lo puniva, niente, non lo so cosa il presidente va a cinghiare, niente, il figlio era irrecuperabile, infatti poi era, mezzo delinquentello era. Perché poi alla fine succede quello, se il genitore, che sia padre o madre, non hanno le capacità, la forza fisica e morale per poter educare un figlio, o nel caso mancasse addirittura il primo genitore, è un casino, mentre questo nella mia famiglia non è successo, quindi sicuramente c'è stata anche la voglia di dare una mano a mia madre, che era sola, che lavorava dalla mattina alla sera, che ha fatto tanti sacrifici per mandare avanti la famiglia, capito? Anche avendone, perché grazie a Dio mamma ne ha anche oggi, però anche avendone ha sempre lavorato e ha sempre dato il massimo ai figli, non ci ha mai fatto mancare niente. Aspetta, saluta mia figlia, riprendi già. Comunque l'educazione era diversa, prima era diversa l'educazione, prima io mi ricordo che se tu facevi qualcosa che non dovevi fare, ti vedeva una persona che ti conosceva, ti gridava, ti diceva, lo dico a tua madre se non è così, beh, se tu vai avanti viene a parlarci. Eia già. Come stavo dicendo a Claudio, una volta da bambini, quando tiravi qualche sassetto ai cartelli del tram, no, subito arrivava il signorotto, questi sono danneggiamenti, dimmi chi, dove abiti, mi voglia di mandarli al diavolo, oppure tipo cose così. Adesso non si azzardano, perché cazzo arrivano i genitori, li partono. Prima ce n'erano i signorotti del genere, me lo ricordo chiaramente. certe volte veniva a dire, anche se i genitori avevano detto, ma fatti i cazzi tuoi, no, no, non ha rotto nulla. Ha fatto un sassetto, ha rimbalzato sul cartello, basta, già. E vabbè, adesso ho paura anche, capito? Oppure se la pigliano con quelli troppo deboli. Ehi, ehi. Quindi sculaccio, per esempio la mia maestra dava scapaccioni, cioè non schiaffi in faccia, tirava dietro l'orecchio, così, scapaccioni, come erano degli schiaffi dati dietro, ma sai, con i capelli poi attutiva. Certo non ti poteva picchiare con la bacchetta come si faceva cent'anni fa, quello no? Sui dorsi, mille bacchette sui dorsi, ma facevano male, quelle proprio erano punizioni corporali vere e proprie. No, praticamente si facevano mettere le mani sul banco, tu con la bacchetta ti picchiava. E a schiaffi, io mi ricordo sempre questo palo di Giuseppe, questo amico mio, compagno di scuola, la maestra mi diceva, hai fatti conti, io stavo per nome e cognome, no? Prima di tutti fatti. Praticamente mi dice, ma secondo me io non ce l'ho fatta perché i genitori stavano lavorando, io da Roma mi sono dimenticato di fare niente. Ma perché? Che figlia? Dico di picchiarti a faccia, con gli occhiali, pum, picchiarti a faccia, non si mette le mani sul banco. Ma se la maestra, cazzo di bacchetta, ma poi non è una bacchetta. Era anche grossa quella bacchetta, era quella che usava per segnare la lavagna, quello che capito. Che aveva scritto, no, per mostrarci come aveva fatto l'operazione, eccetera, eccetera, usava questa macchina. E quella lì, l'uomo che l'ha sbattuta sulle mani, poi ce l'aveva. Praticamente con questo qui, in particolare, una sera un po' robustello, con la faccia, con la pierotta rossiccia, e diceva, brutto mattatone che non sei altro, un bel dispregiato di voi. Che si è espulso dalla Taranta. Chi, Giù? Che si. Che sì, quindi la Atalanta in 10, sempre 1-0 sta vincendo. Sì, sempre 1-0, anzi sta cercando il Napoli addirittura. Otto calci d'angolo contro il 2 o 3, una cosa del genere. Che sì, ho capito chi è, sì, sì, sì. E io vabbè, ma lo vorrei giocare uguale la Napoli, come avevi detto. Comunque sì, prima erano severi, Però naturalmente quando la maestra ci puniva e tirava questi scapaccioni, noi capivamo poi che avevamo ragione, cioè che aveva ragione, cioè quando ne combinavi una, noi sapevamo di averla combinata, capito? Invece certi magari non riescono proprio a comprendere che te l'ha dato per un motivo lo scapaccione, capito? E certi padri anche all'epoca si giravano, si rifiutavano di firmare la nota, e tutti stravaganti erano. Vabbè, dai. Non puoi fare una cosa del genere, perché la maestra secondo te ha la capacità o il potere di poterti dare uno schiaffo, di picchiarti, non si invade neanche cosa, no? Sono i genitori per educare i propri figli, non la maestra o il maestro, o lo gassido. Vabbè, io ti sto parlando però quando ero all'elementare io, anni 70, seconda metà degli anni 70. Adesso è già diversa la cosa, però a noi ci è servito un po' con lo scapaccione, capito? Quando facevamo gli stronzi, mentre adesso fanno il porco, ma sono per scantonare, fanno il cavolo che vogliono, perché al momento giusto anche il genitore non glielo dà un ciaffone o uno sculaccione, capito? Gli lasciano allo stato brado sia le maestre, perché tanto adesso se ce li fai così, cazzo guai, fanno il cavolo che vogliono, ci vuole una via di mezzo giusta. Il genitore alla maestra diceva, mi raccomando, se si comporta male, due schiaffi, che poi schiaffi non ne dà, ma dà lo scappaccioni, dice due schiaffi che poi il resto glielo do io. Adesso no, adesso fanno quello che vogliono, fanno i delinquenti, i genitori li coprono, quindi non c'è la giusta via di mezzo, capito Claudio? Io ho capito, ma quando ero a scuola io la maestra ti puniva, non ti picchiava. capito, ti puniva in senso buono, vai dietro la lavagna oppure stai, cioè fesserie, ma non mai, perlomeno io sia all'elementare che alle medie no, ma alle elementari non ho mai subito nessuna violenza, pure ho un rompimento di scatole, ero, non ero maleducato, ma ero insomma abbastanza vivace, capito? Poi le classi erano miste, quindi avevamo maschi e femmine, femminucce, ragazzine, capito? Quindi insomma, però mai queste cose sono successe, perlomeno nell'era mia. Invece stanno succedendo adesso che le maestre d'asilo picchiano i bambini, ma non ti vergogni, devi picchiare un bambino, e sono bambini davvero, capito, le scuole materne, le elementari, queste cose oramai sono sotto gli occhi di tutti, Marco. Ma i bambini non sono scemi, adesso parlano, non sono più come prima, i bambini dicono tutto adesso. Ancora Cordara, 2-0. Vai, sono troppo contento, in desi, abba. Insomma, io sono un difensore, Giulio, cioè i difensori segnali. Il difensore, infatti. Un'azione di Spinazzola, anche quello, Juventino, anche quello. Poi si è inserito Caldara dietro, una fucilata e gol. Il suo povero Giare, Sant'Antonio mio. Ui, come sto? Comunque sì, queste all'asilo, per esempio all'asilo anche negli anni 70 assolutamente i bambini non si dovevano toccare, perché all'asilo il bambino è troppo piccolo, può subirne anche uno shock dai maltrattare, da quello che fanno le maestre, adesso lo fanno, perché sono tutte, io sono stato prima in un asilo normale, poi dalle suore, ma lì assolutamente non c'erano pene corporali, nulla, non ti toccavano, invece adesso queste maestrelle giovani prese non si sa dove, con quali qualifiche, danno i ciaffotti ai bambini, li prendono, li strattonano, li sbattono sul banco, quello non si fa assolutamente, anche perché il bambino è molto piccolo, in una fase delicata. Infatti te l'ho detto Gianni, poi i bambini adesso parlano, capito? No, io asilo non ne ho fatto, né io né mio fratello, nessuno a casa asilo, nessuno, capito? Avevamo la tata, allora, quindi io asilo non ne ho fatto, non lo conosco, non so mai come è fatto, però mia figlia che ha fatto l'asilo sia nido che il resto, cioè scuola materna e asilo, perché c'era la mamma, quindi era l'asilo dove lavorava la mamma, non c'è mai stato un caso di nessun genere, assolutamente, massima attenzione, massima serietà, perciò non so perché stanno succedendo queste cose. Anche l'altro giorno da poco mi pare già, no? C'era un coso alla Canale 5 proprio di maltrattamento sui bambini. Sì, sui bambini e sugli anziani. Ho visto su Facebook un questo che picchiava un'anziana e questa si girava su se stessa in terra seduta e più si girava più la picchiava. Un bastardo, guarda. E per entrare in mano chi ci vuoi? Me l'ha fatto prendere il coso solo a vedere. L'anziano poi ancora più brutto. Mamma mia, che fastidio che mi dà. Avevo rispetto io per mia nonna e mio nonno allucinante, anche con mia madre a volte mi attaccavo, le sollevavo la voce, ma se le voci, mai vuoi devi parlarle così, è sempre tua madre, è una persona anziana, perché mi fa tirare, e se ti fa tirare io dici in un modo diverso, io ero già grande allora, e molte volte mia madre la riprendevo perché partiva in quarta, capito? Sì, vabbè, quello lì è una cosa che può essere anche caratteriale. Però il fatto di mettere le mani addosso non lo accetto più, ma non lo accetto più. Questa qui che si piccola, si metteva le mani sopra, la faceva girare in terra, si girava per non colpire, lui la colpiva, cercava i punti per colpirla più forte, bastardo, guarda, una cosa che è un prato, ma troppo fastidio. Il sigillo la bugirà subito, cioè. Vabbè, mamma mia, che cose brutte, guarda. Però adesso se sbagli la pezza di subito, quindi bisogna stare attento. Quanto manca Giulio? Poco, no? Giulio ha abbassato il volume. 19.35. 5, dovremmo essere già quasi al 40, no, avanti manco lì. E vabbè, abbiamo parlato anche di quello oggi. Naturalmente, boh, non lo so, certi soggetti non sono recuperabili, perché per esempio questo Njord che prima ha ammazzato quella ragazza che era con lui in macchina, che ha incendiato il velo una suora, che ha massacrato di botte la ragazza incinta, i genitori l'hanno detto, cioè quello è irrecuperabile, quello è spostato di testa, l'hanno detto anche i genitori, ha delle gravi turbe mentali. Quello cosa li puoi fare? O gli spari? Non è recuperabile, capito? Non è giusto di testa, in poche parole. Non è giusto di testa, secondo te cosa devi fare? Devi continuare a farlo vivere. Ah, ma ammazzi subito, e te lo cudi tanto un cassonetto della mondetta. Non si può. Purtroppo o lo mandi in clinica psichiatrica a vita, ma non si può. Manicomi li hanno chiusi e lo mettono in strada, lo mettono fuori a fare ancora più danno. Capito? Ne ha combinate di tutte e di più. Ma proprio fuori, è scoppiato quello. No? I genitori poveracci erano con le facce in terra, cioè non dice, l'hanno detto anche loro, non è normale, l'hanno detto anche loro. Che è successo? Mamma mia. Ah, io figli, piuttosto che aver figli mi faccio la vasectomia, capito? Mi taglio i fili dai condotti delle... capito? Troppo... A parte che non ho la capacità, non ho le basi finanziarie, no? Di fare famiglia, poi una responsabilità grande, no. Per carità. E già si cresce piano piano, perché già che arrivo subito. Vabbè, sono una responsabilità, ma sono anche un modo per quello sì. Ma tu come ti comporteresti, per esempio, se Marco, no, fra qualche anno dovesse cominciare a diventare un po' stravagante per via delle compagnie, no, dovesse cominciare a girare, a alzare troppo la testa, a risponderti male, tipo no, non mi girami le balle, tu cosa faresti? Come ti comporteresti? Allora, io innanzitutto mi auguro che Marco continui a crescere come sta crescendo, aiutato, eccetera, eccetera. Poi secondo loro, con bisogna trovarsi nella situazione, Marco, per vedere le cose, non potrei rispondere, perché mai non potrei dire, se ne risponde male, ne vuole dire uno schiavo, e magari puoi essere lui, mi ha dato di risolvere vocalmente, basta, ma non lo so, perché bisogna trovarsi nella determinata situazione, io mi auguro di non trovarmi mai. Deia, è brutto, io penso a quelle cose lì anche, sono figli anche giovani, ventenni, che mettono le mani addosso al padre, addosso alla madre, cioè roba del genere. E cosa fai? Più che mandarlo fuori di casa non puoi fare altro. Sempre che se ne voglia andare, meglio se non se ne vuole andare, capito? Vuol fare il padrone di casa, è un casino. Ci sono troppe incognite nell'educazione dei figli, per quanto tu le educhi, e anche influenze esterne, amicizie, eccetera, oppure non lo so proprio, la personalità stessa della persona, possono cambiare col tempo e peggiorare, o rimanere buone sempre, comunque, potrebbe essere buoni figli come diventare delinquenti. Questo mi spaventa, capito, nell'avere un figlio. Prima, sai, quando è piccolo ci sono più gioie e cose, poi con lo sviluppo cominciano gli ormoni, non so, diventano tutti contestatori, ce l'hanno con tutti, con la società, con i genitori, poi, no, come in quei film comici. Aspetta, com'era quello carino? Genitori e figli, istruzioni per l'uso, capito? che contestano sempre i genitori in tutto quello che fanno, in tutto quello che pensano. E ha detto, ecco, ma... Sì, ma lo so. Siamo 40 della proprietà, che sei così, non so anche che succede. Ma poi già cambiano, per dire, ma noi la prima era... ci vestiva in una maniera particolare, ci veste battagliati con la morte, tipo le burche, eccetera, eccetera. Poi noi eravamo preoccupati per questo, infatti la seguivamo anche quando usciva, per vedere come andava. Beh, poi ha cambiato da sola, si è resa conto che era diventata già una donna, che doveva vestirsi in una certa maniera, ma le bagagli che si vestivano in una certa maniera stavano bene, eccetera, eccetera, la figlia ha cambiato da sola. Ma noi ce l'ha detto un'amica, non vi preoccupate perché se la figlia era così, è solo una fase della crescita e basta. Sì, sì, sì. No, ma di quello non ti devi preoccupare. Anch'io ero metallaro, mettevo gli anelli col teschio, le collane col teschio, mi piacevano i bracciali con le borchie, il giubbotto in pelle, tutte quelle fesserie là, ma quello si fa quando si è ragazzieri. Per esempio anche la figlia di un ex amico... di un ex amico, non la figlia scusa, la nipote, no, prima era diventata tutta metallara, cazzo, si faceva le labbra nere, c'aveva il rossetto nero, tutta era proprio, sembrava una specie di diavolo, sembrava, no? Quando era adolescente, poi è cresciuta, si è vestita da donna, capito, col tubino, e poco era buona pure me. È solo una fase adolescenziale, sai, o si è paninari, che poi non esistono più i paninari, o diventi... Una volta c'erano i paninari dark, i metallari, eccetera, eccetera. Adesso i paninari non esistono più, esistono gli emo, esiste qualche metallaro, poi esistono un misto di accozzaglie, di, ma è solo una fase adolescenziale che poi passa, capito? Poi se non passa, in America ci sono persone di 30, 40, 50 anni ancora sono tutte vivono cazzo con l'anello, con la morte, con tatuaggi, con borchie dappertutto, anche sul pisello per dire. Certi non, da quel punto di vista non crescono, non lo so perché, o perché sono bande di motociclisti, o perché sono musicisti, rocchettari, o semplicemente mancanti. Sì, ma ce ne sono anche qua, anche da grande continuano una... Però ho visto anche Manuel ha fatto proprio rossetto nero, per carità, di uno che si sembra con un manto nero, eccetera, eccetera. Non voglio ricordare, avevamo disperato. No, vabbè, disperato no. E perché Teresa, la madre non si è mica disperata per la figlia così. Cioè, lo sapeva che era una fase di passaggio. Per esempio, adesso tu lo sai, no, ci sono gli emo, no, che sono sempre tristi, pettinati in modo strano, così, con un po' di eyeliner, no. Ecco, gli emo sono, a mio avviso, l'evoluzione del dark. Una volta esistevano i dark, lo stesso sempre tristi, sempre con i capelli un po' strani, vestiti di scuro, sempre no. Gli emo sembra che siano un'evoluzione del proprio dei dark degli anni 80 e primissimi 90, capito? Come adesso ci sono evoluzioni anche di punk, post-punk, punk post-modern, diciamo un modo più normale di vestire, però sempre con un po' di eccentricità nel vestire, no? Qualche piccolo particolare che tiene ancora caratteristiche punk, però rispetto a una volta è molto più moderato, diciamo, dai. Anche un ragazzo che poi fa praticamente un orecchino che si allarga all'orecchio in una maniera allucinante. Cioè per l'ombo dell'orecchio è tutto un buco enorme, con questo orecchino dentro, grande, che adesso è tutto diverso. Adesso veste bene, tutto quanto, ma prima erano sempre così. Gioia. Infatti una volta c'era una greppa che lui ci ha detto, è un po' di merda, non so che cosa, ma noi la Italia, perché ce ne sono stati lì, per quanto facile il video. Se ce ne sono stati lì, se ne sono stati lì, ha detto che è molto bello. No, ma lo stavamo dicendo lì. Allora, tante Marco, secondo la dovrete mia figlia, tante se Marco anche, che sta qui. La sua è la faccia di vita che non sta cercando. E noi poi esci, ho detto basta, e lo parlo così. Beh, è bello però che abbia preso anche le sue difese, dai. Sì, adesso io sai cos'è, sono troppo anziano per conoscere le mode dei giovani. Però, non lo so, molti sono... questa musica casual, jeans rotti, non lo so, i metallari grosso modo sopravvivono anche se anche loro si sono evoluti, diciamo, magari vestono anche più normale, una volta avevano i capelli lunghi, belli lunghi, non un po' la femmina, adesso ce li hanno corti, i metallari che conoscevo allora, adesso ci ho preso un po' la mano e non so più le mode di adesso. Invece i paninari si sono estinti fortunatamente, i paninari di allora, c'erano l'opposto dei metallari e dei dark, non si potevano vedere, capito? Proprio era una specie di guerra. Ma quelli che avevano la cresta, quelli che cos'era? Ah, quelli punk, bello, il punk, movimento punk, testa rasata e creste allucinanti, con i giubbotti in pelle con borchie, con le spille tipo dei Sex Pistols, di, cioè quelle cose lì a moda, uno stile English, uno stile inglese, dai, dei punk. Non so se esistano più i punk o quello che ne è rimasto, insomma, una forma un po' più soft di punk. Ehi, te l'ho detto, ho perso di vista ormai tutta la storia. Sono obsoleto ormai. Super tipo che mi ha fatto Marco? No, non lo so, non frequento più. Ogni tanto lo vedo sempre con la moto. Credo che abbia sempre quel negozio lì a Piazza Università. Non ci frequentiamo più però. No, non ho capito. Vabbè. Quello era mezzo, un po' mezzo metallaro, mi ricordo, dai, qualcosa del genere. Va bene, dai, sono le 8:10, io vi saluto, chiudo perché è già arrivata gente, eccetera, eccetera. Se no è un casino. Ci sentiamo, ciao anche a Giulio, ciao Gianni, ciao a te Marco, chiunque fosse in ascolto. A domani signori, ciao. Ciao Fra. Ciao anche a me, ciao ciao. Ciao Fra, ciao, buona serata, dai, ci sentiamo. Io tra poco vado via perché devo portare più stagione. Ciao anche a me, domani. Ehi, guarda che c'è un profilo tu che è, non so, senza foto c'è a noi. Anzi, ho visto, no? Ma che sono amici, se non l'ho fatta. Poi c'è uno che ti ha scritto, non lo so, un amico tuo. Qualcuno mi dice, o ti sta stoppiando, boh. No, ero io che stavo cambiando account perché non mi facevo entrare, tu mi ha fatto entrare e ho parlato con te, capito? Non ti preoccupare, ancora, non accettarla e fregatela, perché tanto è un account nuovo che stavo creando. Ah, te va bene allora, ok. Tutto a posto, sì, l'ho visto oggi. Più che altro. Hai visto quella 500 che ti ho messo la foto, è poco bella, E di chi è quella? Un tipo è venuto lì al bar di fronte a casa, dove ogni tanto andiamo io e Marco. Ho parcheggiato la macchina lì e gli ho detto, cazzo, questa sì che è la bella 500. Ho preso e gli ho fatto subito la foto davanti, dietro, un fianco. Bella veramente. La forata, però lì è la 5595 ha fatto Giannini, io l'ho avuta lui. Io ho avuto la Giannini. C'aveva l'intesa e se tu mi prendi che c'era contatti particolari, c'aveva tutta la strumentazione completamente di questa la 590, rotonda, poi c'aveva le marce con il cambio basso, c'era un sacco di roba diversa all'interno, tutta fatta in legno dentro, non è bella. L'avevo praticamente demolita quando mi si è illuminata la guarnizione della testata, e aveva bruciato anche la testata e cose. dovevano cambiare, poi c'era la testata e la lunghia, se gli mettevi la testata normale non vedeva come era, però faceva nella salita di Marini 130, adesso se ho passato la Giulia una volta che ti mamma hai dato, perché cazzo non ti riscendi? Già c'era passato una volta 500, ne conosco parecchi anche Gianni, non Gianni Coso, come cazzo si chiama, figlio di Ripi, Gianpaolo, sì. Gianpaolo Magà che c'aveva 500 watt lo stesso, quella della le malattie lanciata. Facevamo quella in giro, già ne ho conosciuto di 500 lavorate. In caso mi vedevo uno, qualcuno pigliato fuoco, da dietro. 95 giardini era la mia, c'era un raffreddamento dietro, sempre con il sesto e stato. C'aveva due ferri che bloccavano il compagno di dietro, dovevano rimanere sempre aperto, con la coppa di due giardini, rossa, insomma c'aveva due grosse modifiche, c'aveva calcolato la turboncino, faceva il risultato quando faceva la bomba, con l'accelerante, no? Era per i tempi quelli, per i tempi, fino a 2500 Marco, come quella, consuma poco, qui. 5 euro un litro. Va bene, la mia faceva 9,5 al litro. Ok, gli altri già così si consumano quelle macchine adesso. Oh, avanti Marco. Via. So quanto ne... Sì, c'è una persona in zona che ha una... Non so se sia una 500, vecchio modello, tutta rifatta, con lo scorpione, rossa, con lo scorpione nero, con un motore maggiorato, sì, c'ha è un po' alzato dietro, il cofano, leggermente alzato il cofano motore. Ma non me ne intendo di queste cose qua. Claudio vabbè ha chiuso, sì, ma va detto di Pippo, no, Pippo è più stile, era, sai, con gli stivali, quelli tipo cowboy, camperos, no? Il giubbotto chiodo, però stile motociclista, capito? Stile motociclista, no, non metallaro assolutamente. Sai, poi la musica era tipo AC/DC, ZZ Top, una specie di rock blues, diciamo, quello che piace ai motociclisti, sì, americani più che altro è quello, il rock blues, no, metallari è raro, siamo metallari proprio, dipende da persona a persona, dai. Adesso no, adesso no, chiodo non lo usa più. Usa giubbotti più tecnici, no, materiale sintetico, più moderno, diciamo, dai, il chiodo ormai non va molto di moda, il chiodo io ce l'ho sempre conservato, ne ho avuti due di giubbotti chiodo, uno era in nappa, era sottile, si era distrutto dentro, si era proprio distrutto, c'ero strampato in moto anche, insomma mi ha un po' salvato i gomiti, sai. Invece l'altro era un chiodo proprio più pesante, di pelle pesante, l'altro era nappa, era molto sottile come pelle, questo è vedo pesanti, so che insomma è un po' passato di moda, vabbè ci sta bene sui jeans, quando metti i jeans, scarpe nere, tipo anfibietti, ci sta ancora bene, ma un po' sorpassato. Io molto usavo il kefia, cosiddetto kefia, che è quella sciarpa bianca e nera palestinese, no? Che ha un po' quei pendagli di tessuto. È bella perché ti tiene tutto il collo dietro e davanti, un bel malloppo fa, capito? Non prendi freddo al collo minimamente, è di cotone. E quindi molto andava bene, proteggeva il collo che era un bijou. Ma le vendono anche adesso i kefia, volendo. è che sei un po' di comunista, capito? Se te lo vedono magari ti pigliano per uno di sinistra, di chi si fissabbi, no? Andava di moda molto anni 80 e 90. Ma io lo metterei solo perché è comodo, capito, il kefia. Tutto lì, non ne ho più però. Mi si erano tutti rovinati e quindi non ne ho più adesso. Vai Gianni, lui, la biocco. Se fa il colico la vendetta, mi sembra, mi ci l'ha salutato sicuramente, non è passato per loro, l'ha salutato sicuramente perché un po' lo sentì. Cappa, dai, per questo passaggio di 6 ore. Vabbè dai, mi saluta anche io che devo andare, dai, ma ci sentiamo alle prossimine, statevi bene e continuate queste ore, tranquillità, dai, ciao ciao. E un attimo, dai, saluto di nuovo io. Inavvertitamente ho cercato di trovare un modo a Marco, ma è impossibile da parte mia. E qua, 2-0 per l'Atalanta, nonostante gli uomini parte del secondo tempo. Dai, grandi applausi da parte del pubblico napoletano per gli atalantini. Ok, ci sentiamo, ciao! Ciao, ciao, ci sentiamo, siamo bianchi, ciao! Sì, Claudio ha chiuso perché aveva gente, mi pare. Allora ciao Gianni, anche dai, porta il cane, io che ora è? Quasi le 8, mi guardo il telegiornale già che ci sono. È stata metà politica, metà altre schifezze. Ciao Giulio, anche a te. Ci sentiamo in migliori condizioni, dai, appena stai bello guarito. E chiudo anch'io, dai, mi sta venendo un po' la biocco, mi devo muovere. Dimenticavo, ciao Pomponio. Quando entri cerca di entrare prima, Antonio. O di parlare di più, perché non ti sentivo, ho letto a Claudio e eri all'ascolto, capito? Tu zitto zitto eri già cedi. Ci sentiamo domani domenica, vediamo che tempo farà, se è il caso di fare una bella uscita e se no pazienza, me ne sto a casa. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao ciao.